batti il cuore per amore, batti forte, fai rumore, questo è il battito del cuore, batti cuore, batti cuore, batti cuore per amore, batti forte, fai rumore, questo è il battito del cuore, batti cuore, batti cuore. Causato dall'amore.